Santo Giorno di Simone Spezia. Aborto, il Papa ai preti, c'è facoltà di assolvere i medici e le donne. 21 milioni di persone a Roma e 1 miliardo in tutto il mondo hanno varcato le porte sante per il Giubileo. Referendum il no potrebbe far uscire l'Italia dall'euro, scrive il Financial Times. Renzi a Radio 24, no a governicchi in caso di vittoria del no ai 5 Stelle, chiederemmo il voto. Immigrazione, il Viminale smentisce indiscrezioni pubblicate dai quotidiani, nessuna requisizione di case per ospitare i profughi dopo il voto. L'Istat, Lima, le stime di crescita per il 2016, più 0,8%, crescita moderata, incertezze dalla tensione sui mercati, corrono gli investimenti. Ad un anno dal decreto salva banche, i rimborsi ammontano a 15 milioni, 6 su 10 sotto i 10.000 euro. Restano fuori i risparmiatori che aspettano gli arbitrati. Milan, passato il derby, si torna a parlare della proprietà. Berlusconi non molla, presidente onorario solo se sul mercato decido io. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. Nella puntata del lunedì, che come sapete è un po' più corta, va prima America 24 e poi nell'ultimo quarto d'ora dalle 13.45 alle 14 c'è la nostra rubrica sull'autotrasporto. In apertura dunque la lettera apostolica del Papa in chiusura del Giubileo, Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Carlo, buongiorno. Allora, cosa dice il Papa in questa lettera? Sì, come dicevi, questa lettera, che è un documento molto complesso, fatto appunto, stilato dal Papa alla fine dell'anno giubilare, tra i tanti punti, questo che citavi è forse quello, diciamo, di maggiormente eclatante, cioè il Papa rende permanente per tutti i preti del mondo la possibilità di assolvere dal peccato di procurato aborto, quindi le persone, diciamo alle donne in questo caso, e ai mariti se hanno condiviso, e poi ai medici, quindi sono tutte le persone coinvolte. E questo è, diciamo così, un passo avanti rispetto alla precedente norma, che prevedeva che i sacerdoti, per poter fare questo, dovevano chiedere il permesso al vescovo, cioè a passare attraverso una procedura un pochino più complicata, diversa, e quindi, diciamo così, estende, non è che, diciamo così, il Papa rende l'aborto qualcosa di permesso, anzi continua a condannarlo come un orrendo crimine, ma questo secondo la Chiesa Cattolica, ma è più semplice il perdono, e questo un po' nella linea da tempo intrapresa dal Papa della misericordia, del perdono, dell'accoglienza, dell'inclusione verso le persone che fino ad oggi erano escluse dalla Chiesa Cattolica in qualche modo. Questo sul fronte dell'aborto, più in generale sul Giubileo, perché poi tutto si ricollega naturalmente, Carlo, sono stati diffusi dei numeri oggi. Sì, esatto, l'arcivescovo Fisichella, che è stato l'organizzatore del Giubileo, ha dato dei numeri precisi per quanto riguarda Roma. Hanno attraversato le porte sante di Roma 21 milioni di persone, quindi diciamo quello che era considerato un flop, lo è, come sappiamo, un po' dal punto di vista economico, ma questo Fisichella ha detto non era il nostro obiettivo, noi le questioni economiche non ce ne siamo mai, diciamo, occupati, ma come numeri tantissimi sono stati. Nel mondo il calcolo, un calcolo di stima, tra i diocesi, i santuari, tutto il mondo, ha detto che più o meno sono 950 milioni di persone, quindi sommati quelli di Roma si arriva prossimi al miliardo di persone che hanno attraversato le porte sante nel mondo. Ti ringrazio, grazie a Carlo Marroni, Vaticanista del Sole 24 Ore, per questo punto, tanto sulla lettera apostolica quanto sul Giubileo. Noi torniamo alle cose più strettamente italiane, a partire da quelle economiche. Ci sono i dati Istat, c'è l'intervento di Renzi questa mattina a Radio 24, ospite di Oscar Giannino e Alessandro Milan. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati positivi, quelli previsionali del PIL, ma comunque rivisti a ribasso rispetto alle stime precedenti. Il prodotto interno lordo, allora, secondo l'Istat, chiuderà il 2016 con una media d'anno del più 0,8%, seguirebbe una crescita dello 0,9% nel 2017. Il taglio nelle stime di 0,3 punti. Ritmi dunque più moderati nel biennio per lo sviluppo dell'economia, e le incertezze per le nuove tensioni sui mercati, segnala l'Istat, potrebbero condizionarne il percorso a seguire. Quanto al mercato del lavoro, la disoccupazione dovrebbe calare nel 2016 all'11,5% e all'11,3% nel 2017. Bene gli investimenti con un più 2% quest'anno e una successiva accelerazione nel 2017 più 2,7%. Della situazione economica ha parlato intanto, lo anticipavi Simone, il Presidente del Consiglio Renzi, proprio a Radio 24, rivendicando i risultati raggiunti su PIL e lavoro e nella lotta all'evasione fiscale. Ascoltiamo allora questo passaggio. È aumentata la lotta all'evasione fiscale. Il mio governo, negli ultimi 70 anni, è il governo che ha fatto il risultato migliore di recupero dell'evasione fiscale, 14,9 miliardi di euro. Se lei fa una graduatoria degli ultimi 70 anni, lei vede che il governo che ha preso più soldi di tutti dal recupero dell'evasione fiscale è il nostro. Naturalmente a qualcuno per piacere, ad altri no. Sì. Ma se io guardo il campionato dell'anno scorso, a me non piace come è andato a finire, ma ha vinto la Juve. Perché? Perché ha fatto più punti di tutti. In chiusura, la manovra economica, il momento delle votazioni sugli emendamenti, si parla di enti locali, in serata si arriverà al capitolo previdenza, in particolare con i nodi opzione donna ed esodati. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, il Presidente del Consiglio ha parlato ai nostri microfoni naturalmente anche di referendum, dunque facciamo il punto proprio sulla campagna referendaria sulla quale interviene anche un editoriale del Financial Times. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, se vincesse il no il governo andrà a casa, è d'accordo Matteo Renzi ed è d'accordo anche il Movimento 5 Stelle, meno la minoranza Dem per la quale si vota per le riforme istituzionali e non per il gradimento all'esecutivo. Ma sentiamo quanto ha detto il Premier questa mattina a Radio 24. Sembra un tipo che sta dentro il governicchio tecnichicchio, che cerchia di vivacchiare per mantenere agli uni e agli altri le poltrone. Cioè io ci sto finché posso cambiare le cose, poi qualcuno può dire che cambio bene, qualcuno che cambio male, però qui si poteva far cos'ha, tutte le cose legittime della politica, ma non c'è dubbio che da quando ci siamo noi in Italia stanno accadendo delle cose, non tutti sono d'accordo, che prima non accadevano. E il Financial Times lancia l'allarme internazionale, se vince il no l'Italia andrà fuori dall'euro. Per gli analisti oltreoceano, il referendum italiano insieme al vertice OPEC sarà uno degli snodi fondamentali per capire l'umore dei mercati internazionali. Intanto il Movimento 5 Stelle si dice contrario anche ad un governo di scopo per fare la legge elettorale. Sentiamo Luigi Di Maio. Se dovesse vincere il no, immagino che, come sta dicendo anche il Presidente del Consiglio, non ci sarà più questo governo, il governo Renzi, il Presidente della Repubblica sarà chiamato al suo ruolo e quindi a seguire l'evolversi delle vicende e immagino chiederà alle forze politiche cosa vogliano fare, questo lo dice la Costituzione. Il Movimento 5 Stelle chiaramente dirà che vuole andare alle elezioni il prima possibile e ridare la parola al popolo italiano. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito. Intanto il Movimento 5 Stelle è scosso dalla vicenda delle firme false a Palermo. In settimana ci dovrebbero essere i primi interrogatori, il servizio. Settimana decisiva per l'inchiesta sulle firme false per la presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Palermo del 2012. In settimana dovrebbero cominciare gli interrogatori degli indagati, fin qui almeno 8, e intanto sono già 2 gli esponenti di primo piano che si sono autosospesi dal Movimento. Dopo Claudia La Rocca, deputato regionale che ha collaborato con la magistratura, è arrivato l'annuncio di Giorgio Ciaccio, anche lui deputato regionale, mentre i 2 parlamentari nazionali indagati, Riccardo Nuti e Claudia Mannino, restano in sella in attesa dell'avviso di garanzia. Il tutto mentre emergono nuovi dettagli su questa vicenda: oltre alle firme clonate o copiate, vi sarebbero firme rubate. Alcuni nominativi con le date di nascita e i documenti d'identità proverrebbero dagli elenchi di chi firmò ai banchetti per il referendum che aveva come argomento la privatizzazione dell'acqua e non per la costituzione delle liste per le successive elezioni amministrative. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Siamo al fronte dell'immigrazione, il Viminale smentisce qualsiasi ipotesi di requisizione delle case circolata sui quotidiani. Non esiste un piano del Ministero dell'Interno per requisire spazi da concedere ai profughi e ai richiedenti asilo nei confronti di quei comuni restii ad accogliere su base volontaria. Lo ha precisato oggi in una nota il Viminale, dopo che per 2 giorni si erano rincorse sui giornali le notizie su presunte indiscrezioni secondo le quali il Ministero era pronto a mettere in atto questo piano di requisizioni straordinarie di alberghi e agriturismi. Il ministro Alfano ha definito la requisizione in provincia di Rovigo di un agriturismo l'estrema ratio. L'ANCI ha ribadito che i comuni vogliono collaborare purché l'accoglienza sia proporzionale al numero di cittadini, sostenibile, volontaria e ci siano le risorse. Intanto il tempo stringe. Sono ad oggi 168.542 richiedenti asilo e profughi ospitati dallo Stato italiano, in aumento del 16% rispetto a un anno fa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a Casteldazzano, siamo in provincia di Verona, è in corso da giorni la protesta dei cittadini proprio perché un prefetto ha requisito un albergo nel quale dovrebbero essere ospitati 200 profughi. Più avanti nel nostro giro per l'Italia parleremo col sindaco appunto di Casteldazzano. Le autorità turche hanno negato ad una delegazione di eurodeputati socialisti, fra cui 5 italiani, l'autorizzazione a visitare il leader detenuto del partito filo curdo Selahattin Demirtas, detenuto dal 5 novembre perché accusato dal governo Erdogan di terrorismo. Valentina Furlanetto ha raggiunto telefonicamente a Edirne uno di questi europarlamentari, l'italiano Brando Benifei. Sentiamolo. Noi siamo una delegazione del Partito Socialista Europeo. Abbiamo cercato di entrare nella prigione di Edirne, dove è detenuto Demirtas. Non ci hanno fatto entrare nella prigione. Voi avevate chiesto l'autorizzazione? Non abbiamo avuto risposta. Noi volevamo incontrare Demirtas, perché come ho detto lo conosciamo, è un membro della nostra famiglia politica, anche come Parlamento europeo abbiamo condannato fortemente la sospensione dell'immunità parlamentare nei confronti dei parlamentari dell'HDP, è un tema estremamente importante quello di tutelare, difendere anche la democrazia in questo caso in Turchia, anche rispetto a un partito che è il terzo in questo momento del paese. Parliamo di un paese anche che è tuttora candidato a essere membro dell'Unione. Tutta questa situazione è inaccettabile. Nuova operazione antiterrorismo in Francia. Un nuovo attacco sventato. Mai la minaccia terroristica è stata così elevata sul nostro territorio, ha detto oggi il ministro dell'interno francese Bernard Cazeneuve, annunciando l'arresto, avvenuto questo fine settimana, di 7 sospetti jihadisti tra Strasburgo e Marsiglia nell'ambito di una nuova operazione antiterrorismo. I 7 fermati di nazionalità francese, marocchina ed afghana, di età compresa fra i 29 e i 37 anni, stavano preparando un'azione imminente che avrebbe avuto come obiettivi il commissariato della capitale alsaziana, il celebre mercatino di Natale che inizia venerdì e attira ogni anno quasi 2 milioni di persone. I fermati appartenevano a una stessa cellula, si conoscevano poiché erano tornati tutti dalla Siria e avevano legami coi terroristi del Bataclan. Da alcune settimane venivano seguiti dalle forze dell'ordine e negli ultimi giorni si erano mostrati molto nervosi in attesa di una fornitura di armi. La Francia, lo ricordiamo, è in stato d'emergenza dopo i diversi attacchi da parte dell'ISIS e dall'inizio del 2016 sono già 418 le persone arrestate. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuove notizie arrivano dalla procura di Trani sulla strage nello scontro tra treni di luglio. Talmente obsoleto da non essere più riconosciuto neanche come sistema di sicurezza, così definiscono i magistrati della procura di Trani il blocco telefonico al quale venne affidato il controllo sulla tratta ferroviaria Corato-Andria, quella sulla quale il 12 luglio avvenne lo scontro frontale tra due convogli di ferrotranviaria che provocò 23 morti e 50 feriti. Un sistema basato sui dispacci telefonici, scrivono i PM, in contrasto con la normativa in vigore che impone al gestore della linea ferroviaria di adeguare la sicurezza alla migliore tecnologia esistente e il blocco è la peggiore perché di certo la più arcaica. Per questo Ferrotranviaria, secondo l'accusa, avrebbe violato la normativa sulla sicurezza sul lavoro ai danni sia dei propri dipendenti sia dei numerosissimi passeggeri dei treni. La procura ha dunque avviato accertamenti su questo nuovo filone, acquisite le lettere della stessa agenzia sulla sicurezza ferroviaria che definisce obsoleto il sistema e rifiuta di occuparsi delle tratte in cui è attivo, mentre a giorni verrà disposto l'accertamento tecnico irripetibile sulla scatola nera di uno dei due treni. Non sono esclusi nuovi avvisi di garanzia, oltre ai 6 già notificati. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un anno fa il decreto cosiddetto salva banche. Siamo andati a vedere a che punto siamo. Al momento sono partiti solo i rimborsi forfettari, che coinvolgono le persone con reddito sotto i 35.000 euro e un patrimonio inferiore a 100.000. In tutto 4.000 obbligazionisti subordinati, sui 12.500 che hanno visto sfumare i propri risparmi dopo il salvataggio, un anno fa, di Banca Etruria, Marche, Carichieti, Cariferrara. Siamo a buon punto, anche se servirebbe una proroga, ci spiega Donata Monti, che si occupa di curare i rapporti tra le good bank e le associazioni dei consumatori. Sono stati circa 15 milioni gli indennizzi fatti infatti, tenendo conto che la maggior parte di essi sono stati dati a piccoli obbligazionisti, cioè al di sotto dei 20.000 euro, direi che è già un buon numero. Resta fuori però la maggior parte dei risparmiatori, quelli che aspettano gli arbitrati, sottolinea Letizia Giorgianni, presidente dell'associazione Vittime del Salvabanche. L'altra cosa che noi lamentiamo e che secondo noi è vergognosa è il fatto che non siano pronti ancora i decreti che disciplinano gli arbitrati. Sui decreti al momento non ci sono novità, mentre notizie potrebbero arrivare giovedì dal supervisory board della BCE. Sul tavolo la vendita di 3 delle 4 banche al gruppo UBI. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo a parlare di calcio, archiviato il fine settimana, tra l'altro con questo derby finito in pareggio nei tempi di recupero, archiviata questa giornata, della quale parleremo sicuramente in tutti i convocati a partire dalle 14, torna alla ribalta Silvio Berlusconi, Dario Ricci, eccoci. Eh sì, caro Simone, perché ieri ci eravamo preparati a questo derby nel segno della Cina e della nostalgia, no? Milan e Inter, una già è cinese, l'altra dovrebbe avviarsi a questo closing stabilito per il 13 dicembre, la curva rossonera che dedica questa immensa coreografia al proprio presidente Silvio Berlusconi. Berlusconi che a pochi minuti dal calcio d'avvio, a precisa domanda, questo presidente sarà il suo ultimo derby, risponde con un sibillino, non so. E poi nella notte, dopo una cena in uno dei più lussuosi alberghi milanesi, parla così, sentiamolo. I cinesi, i nostri nuovi soci cinesi, insistono in maniera molto determinata affinché io rimanga presidente. Io ho detto che presidente con una società di altri mi sembrava che fosse una cosa che non potevo tenere in considerazione, mi hanno offerto allora una presidenza onoraria, senza un presidente diverso da me, e quindi non nominerebbero il presidente. E io penso che potrebbe anche provarsi una situazione del genere, però dovrei avere qualche possibilità di intervento, per esempio su un sì o un no sugli acquisti o sulle cessioni, e anche sullo schema di gioco in campo. Se questa cosa mi verrà attribuita, proverò ad accettare anche la presidenza honoris causa. Mi viene da sorridere, Simone, perché immaginiamo, è vero che le società di calcio si diversificano nel loro modello di far business, ma un presidente onorario che decide gli acquisti e anche lo schema di gioco, tanto onorario non mi sembra. Insomma, la questione del closing mi sembra davvero, davvero molto aperta ancora con questo Berlusconi in campo. Vedremo che cosa succederà dunque dal punto di vista societario per il Milan. Per tutta la parte calcistica vi rimando alle 14 a tutti i convocati. Una pausa come sempre per il traffico, poi ci ritroviamo con il nostro giro per l'Italia. Come già detto, parleremo di immigrazione, ma ci occuperemo anche di un tipo di imprenditore un po' particolare. Un ragazzo di 14 anni che si è messo a vendere merendine a scuola, adesso rischia 10 giorni di sospensione, se non di più. A tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della lettera apostolica del Papa in chiusura del Giubileo con novità sul fronte dell'aborto, abbiamo parlato di referendum, dei dati Istat sulle stime di crescita, abbiamo parlato del decreto salvabanche, abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato anche di immigrazione e adesso ci torniamo col nostro giro per l'Italia. Si è parlato tanto in queste ore dell'ipotesi che il voto per il referendum ai prefetti si è dato ordine di requisire addirittura delle case per poter ospitare profughi e migranti da parte dei nei comuni nei quali i sindaci sono per così dire recalcitranti, ipotesi seccamente smentita dal Viminale. In realtà le requisizioni vanno avanti sostanzialmente. È successo per esempio in un comune del Veronese che si chiama Castel d'Azzano, dove siamo già stati in passato. Torna da noi il sindaco Antonello Panuccio. Sindaco, bentornato. Buongiorno a voi. Si tratta dell'Hotel Cristallo nel centro del paese. Il prefetto ha detto: mi servono 200 posti, quindi lo requisisco. I cittadini protestano da settimane. L'ultimo sit-in è stato qualche due o tre giorni fa, se non erro, non so se stiano protestando ancora adesso. La decisione di portare là i 200 profughi è stata rimandata. Nel frattempo lei ha deciso un po' di cambiare idea. Sentiamo un attimo quest'audio. Io non ho immobili da poter mettere a disposizione, gli unici immobili che ho sono il municipio. E questo era lei stesso che qualche settimana fa ci spiegava perché non aveva deciso di aderire al sistema di accoglienza SPRAR, che è quello organizzato dall'ANCI, cioè in collaborazione con i comuni, e che permette sostanzialmente ai sindaci di decidere dove mettere i profughi nel momento nel quale arrivano. A questo punto mi sembra di aver capito, lei ha cambiato idea o no? No, non abbiamo cambiato idea, nel senso che ancora vale quello che è stato detto, cioè noi non abbiamo immobili di proprietà da poter inserire questi richiedenti asilo. Quindi l'idea dell'amministrazione è di contenere i danni, nel senso, tra virgolette, danni, nel senso che un paese come il nostro non può gestirne 200 in un unico posto al centro del paese, perché si trasformerebbe in un ghetto, e quindi aderendo allo SPRAR abbiamo avuto rassicurazioni da Roma che non procederanno alla requisizione. E come trovare questi spazi? Io devo fare un bando tra i miei cittadini per chiedere a chi è che ha degli appartamenti da mettere a disposizione, che saranno retribuiti a canoni di mercato, e quindi devo andare io sindaco, con tutto quello che devono fare i comuni per la normale amministrazione, a fare una gara per cercare appartamenti sfitti da mettere sul, da dare in gestione al comune per aderire a un progetto SPRAR. E se nessuno si offrisse, sindaco, che cosa potreste fare? Se nessuno si offre, non è che abbiamo tante altre possibilità, cioè se spazi nessuno li mette a disposizione, non abbiamo altre possibilità. Quindi anche con la buona volontà dell'amministrazione di voler essere accogliente, di accogliere la quota che toccherebbe al nostro comune, che è di circa 35 richiedenti asilo, se nessuno dei miei cittadini mette a disposizione un appartamento, non abbiamo altre possibilità, e quindi ci beccheremo i 200 dentro questa struttura requisita dallo Stato. Quanti abitanti fa Castel d'Azzano, sindaco? Noi siamo 12.000 abitanti. Io credo che comunque degli immobili, insomma, nel mercato ce ne sono, il mercato è in crisi, quindi sono fiducioso che si troveranno degli appartamenti. Ma non c'erano altre possibilità nei comuni vicini? Cioè, lei immagino che sia in relazione, in rapporto con i sindaci della zona, con gli altri sindaci della zona, no? Guardi, qui nella zona, siccome ancora la normativa non è chiara, cioè c'è una direttiva che assomiglia più a un gentleman agreement tra il ministro e i prefetti, è una circolare non vincolante dell'11 ottobre che dice, il ministro Alfano dice: prefetti, dove vedete che i comuni comunque accolgono, cercate di non fare requisizioni, cercate di non mettere altri centri di accoglienza straordinaria, cioè grandi strutture. I comuni vicini, qui a Verona, solo il comune di Verona ha aderito allo SPRAR, nemmeno i comuni anche a guida PD o comuni molto vicini al governo hanno mai aderito, anche perché, come dicevo, non è stata fatta proprio una campagna martellante di informazione. Su questo argomento, devo essere sincero, è solo in questi giorni che si vede un'informazione e una creazione di una cultura un po' diversa, un po' più, anche che coinvolge gli enti locali. Sì, domani, per esempio, a Belluno, a 200 chilometri da qui, comunque sempre Regione Veneto, viene fatto proprio un convegno per i sindaci, dove il sindaco di Prato, referente per l'ANCI per l'immigrazione, ci parlerà. Ma è la prima che vedo in tutti questi mesi. Tutti questi. Quindi spesso i sindaci nemmeno lo sanno come funziona effettivamente. La ringrazio. Grazie Antonello Panuccio, sindaco di Castel d'Azzano, e noi nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Torino. È una vicenda che riguarda una scuola, ma che sta salendo alla ribalta delle cronache nazionali, perché è un po' uno scontro tra la dura disciplina che bisogna tenere, una disciplina legata anche alla legalità da una parte, e dall'altra parte lo spirito imprenditoriale. Lo spirito imprenditoriale di un ragazzo di 17 anni che vede che le merendine al bar dell'Itis di Moncalieri costano troppo, e che cosa fa? Si fa il giro per i supermercati, vede i posti dove costano meno, le compra e inizia a rivenderle ai suoi compagni di scuola, che sono 1700, quindi il giro di business è anche notevole. Qua qualcuno già ci scrive, forse ha già letto la storia da qualche parte, un ascoltatore via WhatsApp: è finita la fiesta per lo spacciatore di merendine. Battutaccia, ma ma non è male. Stefano Fava, preside dell'ITIS Pininfarina, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, che cosa fate? Lo sospendete? Cioè, è un'iniziativa imprenditoriale, devo dire, forte, anche messo in evidenza, come dire, che c'è un sovrapprezzo sulle merendine del bar, che non è niente male. Devo dire la verità, non so qual è il sovrapprezzo, perché non, questo è un dato di cui io non dispongo. Non dispone, eh. Non dispone. Però, vede, quando c'è un commercio legale, un commercio illegale, dietro c'è una differenza, che è quella del contribuente o non del contribuente, o del non contribuente. Quindi è ovvio, no, che se qualcuno deve vendere e ci deve pagare sopra le tasse, vende a un prezzo, oppure deve pagare tasse, scusi, lui l'ha comprate al supermercato, quindi in realtà le tasse ce l'ha già pagate, ci ha pagato l'IVA piena. Sì, io francamente non so dove lui le abbia comprate, poi l'IVA le sa, non è una tassa, non è una parte di giro. Sì. In ogni caso, la differenza sta in quello. Ma il problema della scuola non sta nel fatto, no, di individuare se la merendina costa di più o costa di meno. Noi questo lo facciamo quando facciamo le gare e diamo poi la fornitura al miglior offerente. Le nostre gare sono pubbliche, quindi chi sì. attualmente gestisce il bar lo gestisce secondo tutte le regole. Abbiamo un problema che è uno studente che ha evidentemente un talento e rispetto al quale noi l'anno scorso abbiamo agito con una sospensione. Perché l'aveva già fatto l'anno scorso? Sì, l'anno scorso l'aveva e gli avete fatto. Dato, e gli avete dato 10 giorni di sospensione? Tra virgolette 10 giorni, però con obbligo di frequenza. Non sono stati 10 giorni a casa, no? Non possiamo dire che noi ci curiamo degli studenti e poi cerchiamo di non curarci anche il loro profitto scolastico. Il ragazzo è stato molto distratto da quel commercio, ha studiato poco e poi è stato bocciato, ma non è stata quella la ragione della sua bocciatura. Sente una cosa, Fava, qua io vedo già gli ascoltatori che si scatenano, no? Qualcuno ci dice, come Max da Como dice, la colpa è vostra perché nel bando di gara dovevate cercare prezzi più modici, questo è uno, e l'altro ci dice, più generale, lo Stato, in questo caso la scuola, non tollera la concorrenza, perché poi è un caso di concorrenza questo, al bar. Sì, tra virgolette sleale, aggiungo io. Da questo punto di vista non entro neanche nel merito della però discussione. Sui prezzi che forse è la cosa che più la riguarda strettamente? Ma sui prezzi, vede, noi forniamo un passo completo, che noi chiamiamo TRIS, un primo, un secondo e una frutta, è un contorno, mi scusi, a 4 euro. Sì. I nostri prezzi non penso che possano essere accusati di essere prezzi costosi. Se poi nell'insieme dei prezzi si individua uno snack, bene, quello per me è pazzesco. Qualcun altro ci scrive, fino a qualche anno fa lo facevano i bidelli e non mi risultano punizioni, dice. Ma me lo ricordo anch'io, lo sa? Non nel nostro sistema. Noi pensiamo che la scuola intanto debba essere un sistema dove si insegnano le regole, no? Perché se le regole non si insegnano a scuola, voglio vedere in quale altro luogo nel nostro paese si insegnano le regole. E dopodiché dobbiamo fare i conti anche con queste situazioni. Un ragazzo che, dicevo prima, ha un talento e quindi è un imprenditore in erba, sì. E che noi in qualche modo abbiamo cercato di correggere l'anno scorso e non ce l'abbiamo fatta, allora quale sarà la reazione quest'anno? Sì. Io non so, però qua un ascoltatore mi scrive, Guido, dice non è illecito, un privato può vendere in modo non professionale, del resto su eBay o sulla stessa piattaforma di Amazon lo possiamo fare tutti quanti in sostanza. Beh, il problema è che io nella mia scuola, se il suo figlio venisse a scuola mia e per un puro caso tornasse a casa con un'intossicazione alimentare, lei cercherebbe di capire, o il giudice cercherebbe di capire da dove è derivata. Perché c'è anche una questione di qualità, dice lei, insomma, di verifica qualità, della qualità. Di verifica della qualità, certo. Se non ho un prodotto che è tracciabile e non so da dove arriva, poi il problema è tutto. Certo. Poi non sono così convinto che non si tratti di una attività non autorizzata. Non credo che tutti possano vendere, no, in modo libero. Allora, credo che ci voglia almeno un controllo igienico sopra, E poi si può vendere. Allora la ringrazio, grazie a Stefano Fava, presidente dell'ITI Spininfarina a Torino, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, come sempre c'è lo spazio per la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: sull'aborto, il Papa, i pretici, facoltà di assolvere medici e donne. Referendum: il no potrebbe far uscire l'Italia dall'euro, scrive il Financial Times. Grillo dice: il fronte del sì sono serial killer dei nostri figli, qua siamo oltre la dittatura, è peggio che sotto Pinochet. Immigrazione del Viminale smentisce le indiscrezioni dei quotidiani, nessuna requisizione di case per ospitare i profughi dopo il voto. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Come sapete, il lunedì è tutto un po' diverso, non abbiamo tempo per altro, giusto per farvi sentire Mario Platero e poi alla fine per i saluti.